Ciao, io sono Maurizia, non sono di Napoli, ma vivo a Pozzoli. Buongiorno. Lei non è Sant'Antonio da Padova? No, io sono Gianni. Mon Dieu. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Durante una conferenza europea sulle vaccinazioni promossa dal Ministero della Salute in occasione del semestre di presidenza dell'Unione Europea, i rappresentanti dell'Agenzia Italiana del Farmaco hanno fatto un annuncio clamoroso. Entro i prossimi 3 anni potrebbero prendere il via campagne di profilassi contro il cancro, veri e propri vaccini che andranno naturalmente ad aggiungersi a quelli delle patologie infettive. E sempre secondo l'Agenzia Italiana del Farmaco e i suoi rappresentanti, tra una decina d'anni, pensate, sarà possibile arrivare ad un vaccino per le malattie autoimmuni e per patologie neurodegenerative, una fra tutte l'Alzheimer. Sembra quasi di sfiorare il futuro, di essere vicino ad una svolta, ci siamo quasi, no? Nel frattempo però io direi di non sottovalutare quello che attualmente abbiamo a disposizione, perché grazie ai passi avanti fatti dai ricercatori di tutto il mondo, oggi il cancro è un nemico più conosciuto. In molti casi si può diagnosticare agli esordi, quando le probabilità di sconfiggerlo quindi sono maggiori, oppure addirittura prevenirlo con vaccini o evitando, e questo possiamo farlo tutti, certi comportamenti o sostanze che si sa potrebbero farci ammalare. Allora, nell'attesa dei vaccini, oggi a Cuore Denari vogliamo concentrare la nostra attenzione su una vaccinazione che si è dimostrata molto efficace nel prevenire nelle donne il carcinoma della cervice uterina, il collo dell'utero, soprattutto se effettuata prima dell'inizio dell'attività sessuale. La vaccinazione contro il papillomavirus, che può essere responsabile del cancro al collo dell'utero e anche di un'ampia gamma di patologie, questo non dimentichiamolo, tra cui condilomi, lesioni cervicali, neoplasie anogenitali e tumore dell'orofaringe. Quindi sarà questa la trasmissione di oggi, un tema abbastanza delicato ma assolutamente importante, e sarà questa anche un'occasione per parlare dell'HPV test, che permette di rilevare la presenza di questo virus. Quindi 800 24 0024, cerchiamo di capire che cosa abbiamo a disposizione oggi di quelli che ormai sono stati ribattezzati il vaccino anticancro. Aspettiamo naturalmente anche i vostri messaggi al 349 238 6666. L'anticipazione della pagina di Denari, che naturalmente affronteremo a partire dalle 11:45. parleremo oggi delle piattaforme di social lending, un termine anglosassone che individua le forme di prestito fra privati. Non parliamo quindi di banche tradizionali, non è una banca che ci presta il denaro, ma un'altra persona come noi, e anche a nostra volta possiamo prestare mettendo in atto in pratica un investimento particolare per i nostri risparmi. Se questa forma di scambio vi interessa, se ne avete sentito parlare, volete saperne qualcosa di più, potete iniziare a prenotarvi con le vostre curiosità anche in questo caso all'800 24 0024. Tecnologie e ricerca stanno dando i frutti, tra 3 anni avremo vaccini contro il cancro. È sicuramente un annuncio clamoroso quello che è stato fatto dall'AIFA nei giorni scorsi, che ci fa in qualche modo capire che il futuro è vicino, siamo fuori da quel sorta di tunnel buio, iniziamo a vedere la luce, ma noi vogliamo come sempre cercare di leggere dentro la notizia. Ci aiuta a farlo Maria Giovanna Luini, medico comunicatore scientifico e autrice di numerosi libri e romanzi, tra cui l'ultimo che vorrei citare perché è molto in tema con l'argomento di oggi, che si intitola L'età della donna. Buongiorno dottoressa Luini, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ben ritrovata. Grazie. Allora, vaccini anticancro, a che cosa si riferisce l'AIFA? Sì, Sergio Pecorelli, che è il presidente dell'AIFA, ha spiegato bene. Lui ha detto che saranno disponibili presto, entro 3-5 anni, diciamo, sostanze che possono essere vaccini terapeutici, cioè sostanze che interagiscono con il sistema immunitario della persona malata, in modo tale da tenere sotto controllo una malattia tumorale e possibilmente farla regredire o guarirla, e invece vaccini preventivi che proprio dovrebbero evitare la malattia, quindi vanno ad agire su qualcosa che può essere per esempio eliminato, in modo tale da non far insorgere successivamente la malattia. L'esempio più classico è quello di un virus: il vaccino contro il virus evita l'infezione, non evita il contatto col virus, ma evita la pericolosità del virus, e allora non si sviluppano le conseguenze di tale infezione. Quindi, allora, ricapitolando, il vaccino, la vaccinazione terapeutica ha come obiettivo di tenere sotto controllo la malattia e possibilmente di allungare di la vita del paziente. Sì, prolungare il benessere e la salute. Mentre quello preventivo è quello che previene l'infezione del virus responsabile del tumore. Sì, questo è molto importante da dire, perché la parola vaccino crea qualche confusione. Esistono i vaccini che possono essere utili a persone già malate e i vaccini invece utili in persone sane per evitare la malattia. E la differenza si gioca tra terapeutico e preventivo. Esattamente. Queste sono esattamente i due. Quindi il vaccino antipapillomavirus, che è il virus responsabile del cancro del collo dell'utero, è un vaccino anticancro, per questo viene definito così. Il vaccino antipapillomavirus va a evitare l'infezione da alcuni sottotipi di papillomavirus, quei sottotipi che si sono rivelati pericolosi per la salute, in particolare, ora parliamo della salute della donna, ma non solo veramente della donna, perché questi sottotipi possono creare il tumore. Infatti stavano proprio già alcuni ascoltatori sottolineando la questione della differenza di genere. Daniele parla di alimentazione. No, Domenico da Andria scrive: vi risulta che sia consigliabile effettuare il vaccino per il papillomavirus anche per i maschi adolescenti? Dottoressa Luini. Le do il mio parere, che è il parere di moltissimi ginecologi, sì, nel senso che però non c'è una vaccinazione stabilita dalle regioni, dalla ASL, certo, dello Stato. Stiamo parlando di opportunità. La vaccinazione nel maschio in alcuni paesi, negli Stati Uniti, è un argomento estremamente attuale, lo sta diventando anche qui. La domanda al medico ha la risposta sì. Può essere opportuno vaccinare anche il maschio. Allora, 800 24 00 24. Allora, oggi grande capitolo papillomavirus, vaccino contro il papillomavirus. Vogliamo parlare anche di HPV test. Noi donne ci sottoponiamo al PAP test. Esiste anche l'HPV test. Questi due test così importanti, l'HPV test manderà in soffitta il PAP test. La storia è aperta in una regione, il Piemonte, hanno scelto di fare lo screening affidandolo all'HPV test, quindi hanno accantonato il PAP test. Se volete parlarne con noi, tra l'altro avremo il piacere di avere il dottor Ronco, che ha coordinato uno studio internazionale, verrebbe dire proprio enorme, ecco, in cui ha misurato l'efficacia dei due test. Ci raggiungerà naturalmente tra breve, dopo il GR, quindi iniziate pure a prenotare le vostre domande, i vostri interventi. La dottoressa Luini rimane con noi, perché, dottoressa Luini, noi abbiamo detto che il vaccino è un passo importante per la prevenzione delle malattie che il papillomavirus può causare. Abbiamo detto il tumore del collo dell'utero, non solo, anche il tumore della testa collo, del rinofaringe, tutti i tumori, diciamo, delle mucose, mettiamola così, perché le mucose possono essere colpite, ecco, dall'alterazione. È questo che va sottolineato, è importante conoscere bene come si trasmette l'infezione, come è possibile proteggersi e quali sono i controlli da fare. Anche chi si è vaccinato, e questo voglio sottolinearlo proprio in rosso e blu, come quella che come la maestra, è che non deve, anche chi si è vaccinato non deve assolutamente evitare di sottoporsi ai controlli. Ma assolutamente, a parte che è questione di pura logica, i controlli ginecologici vanno bene in ogni caso, e non solo per andare a cercare le lesioni precancerose del collo dell'utero, ma c'è anche una questione legata al fatto che i vaccini sono molto efficaci, ma hanno la necessità di un po' di anni di controllo, scusate, per cui è evidente che le visite non siano superflue. Ci sarà poi una scadenza definita dai ginecologi, però i controlli vanno fatti ugualmente. Volevo condividere con voi un dato. Quando si parla di papillomavirus, lo stanno dimostrando anche le telefonate che stanno arrivando al nostro numero verde, è difficile trovare qualcuno che non ne abbia mai sentito parlare, no? Qualche cosa si sa, ma molte persone ritengono erroneamente che il virus colpisca solo le donne. Ben 7 su 10, come riportava un sondaggio del Censis del 2011. Per questo, questa non è una puntata dedicata solo alle amiche di Cuore Denari, per tante ragioni, perché il papillomavirus non fa solo preferenze femminili, no. È un virus che può colpire uomini e donne, e poi anche perché dal benessere della donna, come dal benessere dell'uomo, insomma, del partner, della coppia, deriva poi il benessere generale della coppia. Quindi anche se siete uomini, anche se siete maschi, come si dice all'elementare, no? 800 24 0024. Dottoressa Luini. Sì, è vero, HPV, il papilloma è un virus che c'è dappertutto. Non tutti i tipi di papilloma possono provocare tumore, questo va detto e sottolineato. Chiunque di noi può entrare in contatto con il papilloma, effettivamente 7 persone su 10 più o meno vanno incontrano il papilloma, ma non significa che si ammalino, significa che è bene saperlo in modo tale da prendere le dovute normali precauzioni e farsi dei controlli normalissimi. Il papilloma è qualcosa che vive con noi, di per sé non è patologico. Il problema è incontrare il papilloma un po' più cattivo, e allora quando che voi avete individuato, vero? L'abbiamo individuato, sappiamo chi sia. Peraltro adesso la questione dell'informazione è importante, perché quando si dice che il papilloma è trasmesso sessualmente, in realtà è trasmesso per contatto intimo con cute e mucose, quindi può capitare di incontrarlo. A me è successo di incontrarlo, io ho avuto una lesione precancerosa, quindi posso testimoniare che queste cose possono assolutamente guarire, ma possono anche capitare. Quindi si tratta di parlarne con assoluta apertura mentale. E sono contenta che abbiamo già in linea due ascoltatrici. È vero. Giovanna dalla provincia di Bergamo e Assunta da Caserta. Cominciamo con Assunta, allora, che ci chiama appunto dalla Campania. Buongiorno Assunta, benvenuta. Buongiorno, grazie. Volevo chiederle, io sono la mamma di una bimba di 12 anni e ho ricevuto a casa l'opuscolo che mia figlia doveva essere vaccinata. Una vaccinazione facoltativa, e la mia domanda è se è soltanto trasmissibile per via sessuale questo HPV. Da quanto ho capito non è così. Fare una buona scuola, tra parentesi, ai ragazzi, alle ragazze, cioè avere rapporti sessuali protetti, può aiutare? Ma, o necessariamente deve essere fatta questa vaccinazione? No, allora, non mi è molto chiara, guardi, questa cosa. Cioè, necessariamente no, nel senso che non è, mai nulla deve essere fatto necessariamente, non è un obbligo, lei sa che è facoltativa la vaccinazione, però siccome effettivamente la trasmissione non è solo sessuale, ma attraverso cute e mucose, contatto intimo, quindi non necessariamente sessuale, prima dell'inizio dei rapporti sessuali fare vaccinare la ragazza è, diciamo, un aiuto alla salute, è una cosa preziosa. Poi la scelta può anche essere no, siamo liberi di dire no, però effettivamente non si tratta di una trasmissione puramente sessuale. Per esempio l'uso del preservativo aiuta, ma non previene realisticamente, perché il contatto con cute e mucose, con la pelle, con le mucose, avviene in ogni caso, anche senza preservativo, con o senza preservativo. Quindi è un virus, ripeto, che di per sé è innocuo, però è talmente diffuso che quando ne veniamo a contatto possiamo anche essere arrivati a contatto con quello più cattivo, e allora secondo me si fa meglio a vaccinarsi. 800 24 0024, andiamo nella provincia di Bergamo. Dove Deborah? C'è Giovanna che ci aspetta. Giovanna, benvenuta anche a lei. Un'altra buongiorno. Giovanna, buongiorno. Ci dica. Allora, volevo portare la mia testimonianza, un po' datata perché risale a 9 anni fa, avevo appena avuto la mia bimba e da un controllo post-parto mi hanno riscontrato con vari esami e questo HPV che avevo il papillomavirus. Allora, stando a un paio di medici che avevo consultato, mi avevano consigliato un intervento di conizzazione dell'utero perché mi erano state trovate delle cellule tumorali CIN2. Poi siccome io, avendo appena avuto la bambina e volevo continuare ad allattarla e non volevo sospendere con questo intervento, ho rimandato e ho sentito un altro parere di un altro primario, sì, il quale mi ha consigliato invece che potevo tranquillamente aspettare, perché questo papillomavirus, giustamente come dicevate voi, può anche nel mio caso scomparire. E cos'è successo? Perché comunque... È così. Sono rimasta sotto controllo. Sa che Giovanna, è vero, è perché il papilloma è molto diffuso, il 75% sì, della popolazione sessualmente attiva viene a contatto con l'infezione, per fortuna però nella maggior parte dei casi la situazione si risolve da sé. Sì, sì, il papilloma può, anzi di solito lo fa, può sparire da solo. È chiaro che quali sono le lesioni che poi sono meritevoli di intervento, per esempio quelle che sono documentate, sì, come C2 o C3, ma sono persistenti, quindi non è che subito appena si vede la lesione si vada di corsa a fare l'intervento, dipende da caso a caso. Ecco, è l'infezione cronica che fa la differenza, è causata da uno dei ceppi che sono quelli stati più riconosciuti, sì, cioè il 16, il 18, il 51, insomma ci sono dei ceppi proprio specifici che noi conosciamo e sono quelli contro cui peraltro si fa la vaccinazione. La vaccinazione non si fa a priori contro tutti i papillomi possibili, solo contro quei ceppi che sono pericolosi. 800 24 00 24. Tina ci scrive, sì, Deborah. Sicuramente massima attenzione quando si usa un bagno pubblico, è vero? Beh, l'attenzione è logica quando sì, uno, sì, ma ecco, sì, però si creano poi queste preoccupazioni che... Le mucose... Diciamo che teoricamente ci può stare, ma a quel punto l'attenzione riguarda molte altre cose anche, però non possiamo vivere nell'ossessione. Mm-hmm. Cioè. Allora, il vaccino, ci scrive Marco, è valido anche se si è già venuti in contatto con il virus, esatto, sia per l'uomo che per la lo donna? Lo stanno chiedendo in molti. Sì, allora, se c'è, prendiamo il caso di una donna perché c'è la documentazione con l'HPV test, se una donna è venuta a contatto col virus, anche con un virus cattivo, supponiamo che sia stata anche operata per esempio con la conizzazione, ma poi ha dei test HPV negativi, in alcuni casi può scegliere di vaccinarsi. È una cosa, diciamo, ancora a livello sperimentale, ma lo può fare volendo. Anche chi ha già avuto rapporti sessuali con o senza esposizione a papilloma, ma ha un test HPV negativo, quindi non ha dimostrazione di un papilloma su di sé, può vaccinarsi. Il problema nell'uomo è che ancora non, poi vedremo gli studi, ma insomma non c'è il test che di routine si faccia, sì, per cercare il papilloma. Vale la pena che io lo faccia a 45 anni, dottoressa? Può scegliere di farlo, sì. Può scegliere di farlo. Se c'è un test negativo e si sente rassicurata da questo, sì, può scegliere di farlo volendo. Allora, abbiamo Flavio prima da Milano, che vorrei sentire prima di andare ai mercati, e poi vorrei parlare con lei anche di uno studio italiano, è stato pubblicato su Cancer, è stato eseguito da dei ricercatori italiani del Regina Elena di Roma, che hanno scoperto una valida alternativa per scoprire il papillomavirus. Si chiama cito brushing, cioè sì, è un prelievo di cellule nel cavo orale per valutare la presenza, sì, dell'HPV. Sì, molto interessante. Questo peraltro è interessante, sì. Tra l'altro sembra, sì, che sempre di una notizia recentissima, c'è un dispositivo che permette di ottenere il risultato del test, dell'HPV test, in tempi molto più rapidi, sì, rispetto, sì, sì, prima era qualche giorno, adesso sembra 60 minuti. Flavio, sa che Flavio la saluto e la facciamo lanciare i mercati, perché è tempo di dare la parola ai mercati e poi torniamo con, sì, lei? Va bene. Ce li lancia i mercati, poi noi le facciamo parlare con la dottoressa Luini? Okay. Se li lancia bene, però. Se li lancia bene. No, non saprei qual è la terminologia corretta. Flavio rinuncia, ma noi lo teniamo ugualmente. Grazie. Lo sentiamo dopo i mercati. Cuore e denari. Pronto, sei zio Giuseppe? Pronto, sì, sono io. Zio, parla Adelina. Sono Adelina. Ti telefono da Torino. Come sono contento. Sì, sono contenta pure io. Zio Giuseppe, rispondimi subito, perché sennò mi finisce il gettone. Mi puoi mandare 10.000 lire? Brava Adelina, sono proprio contento. Sì, rispondimi, presto. E Gavino, come sta? Sta bene, pure lui. Sì, me le puoi mandare con un bagno telegrafico. 10.000 lire. Brava Adelina, sono proprio contento, sì. Zio. Zio. 10.000 lire. Ecco, chiedere un prestito ad un amico o a un familiare a volte può non essere facile o anche sconsigliabile, Nicoletta, però se io avessi bisogno, certo, tu mi presti qualcosa. Anche tu però, certo, più facile. Sì, certamente. D'altronde potremmo fare un prestito fra private. Ti piace? Le cuore denari private. Esattamente. Allora, 800 24 00 24, c'è un prestito dato o chiesto nel vostro passato che vi è rimasto particolarmente impresso nei ricordi per motivi positivi o negativi? Lo richiedereste oggi o lo riconcedereste e perché? Se chiedere un prestito ad una persona a noi vicina può essere difficile o imbarazzante, a volte chiederlo od ottenerlo da una banca può esserlo ancora di più. Forse però c'è una via di mezzo: le piattaforme di social lending che gestiscono prestiti tra privati. Non si tratta di banche ma di intermediari che garantiscono. A prestare e a chiedere i denari però sono persone come noi. Può essere un'opportunità se non si rientra nei requisiti che ci chiede la banca. 800 24 00 24 per le vostre domande. Noi ne parleremo a partire dalle 11.45. Non ha voluto lanciare i mercati ma è rimasto con noi e quindi lo premiamo e gli diamo subito la parola. Buongiorno Flavio, ci chiama. Buongiorno. Da Milano, 800 24 00 24, un uomo per parlare di papillomavirus. E meno male Flavio, mi dà grandi soddisfazioni, grazie. Beh, vabbè, cerco di informarmi. No, niente, volevo chiedere questo, dato che il vaccino ha un costo insomma anche abbastanza significativo, insomma, e mi chiede, dato che la mia età è media, sono cinquantenne, mia moglie poco meno di me. Mi piace un'età media. Vabbè, insomma, bella. Si arriva a 100 anni. No, però altro che l'età media. È anche sotto la media lei. E niente, mi chiedevo se per una coppia così della mia età è comunque consigliabile fare questo investimento. È investimento alla cuore denari. Perché quanto costa, posso saperlo? Ha ragione, il costo del vaccino se scelto, se è una scelta è abbastanza rilevante. Ecco, nel caso della dodicenne di prima invece no, le campagne vaccinali sono gratuite, ecco, ma riguardano le fasce di età specifiche comprese dalla fascia vaccinale, diciamo. No, ha ragione, il costo dei vaccini è rilevante e la domanda è molto sensata. Diciamo che in verità, come dicevo prima, non è che esista né un obbligo né una necessità urgente di fare il vaccino, questo dico per onestà e per lealtà. Può essere utile, diciamo che con una vita sessuale insomma regolare, avendo per esempio la moglie sui controlli ginecologici regolari, magari con l'HPV test, e poi eventualmente verificando la presenza di papilloma sull'uomo con i test di cui se si riesce parleremo, insomma a quel punto si può anche evitare il vaccino. Ecco, non è una necessità, è un uso sano e virtuoso di un vaccino, può aiutare, questo sì. La domanda che arriva da Silvana da Pisa, è opportuno ritornarci perché forse non siamo stati chiari. Chi ha il papillomavirus è contagioso, ci chiede Silvana alle 11.38 della trasmissione, il che vuol dire che non abbiamo mandato dei messaggi chiari. Allora, ecco, la parola, ritorniamo un attimo su questo senza fare terrorismo. L'abbiamo detto che nel 75% dei casi il virus, il problema si risolve da sé, però... È la parola virus che crea questa ansia. La risposta è sì, ma perché? Perché il virus è dappertutto. Noi siamo in contatto tutti i giorni con batteri e virus e non lo sappiamo perché non ci fanno assolutamente niente di male. Ci conviviamo normalmente. Quindi la risposta è sì, perché se con la pelle o con le mie mucose tocco qualcun altro, io posso trasmettere la presenza del virus papilloma. Non significa che io faccio ammalare un altro. Il punto è che questo contatto di solito non crea alcun tipo di disagio. Non lo sappiamo, non succede niente. In una minoranza dei casi, però, il contatto avviene con un sottotipo di virus un po' più pericoloso. E allora può verificarsi una lesione benigna che nel tempo, in teoria, può diventare tumore, ed ecco perché in alcuni casi il papilloma deve essere riconosciuto e affrontato. Tra poco parleremo del confronto tra HPV test e PAP test, e quindi alle amiche 800 24 00 24. Voglio leggere però il messaggio di Sergio da Udine, ce ne sono stati naturalmente anche su Facebook: le vaccinazioni non godono, no, di buona stampa in questo periodo. Questa non è una vaccinazione obbligatoria, naturalmente. No. Allora, per cortesia, potete anche parlare degli effetti e danni collaterali provocati da questa vaccinazione? Ci serve Sergio da Udine? No, in realtà documentati realmente in senso scientifico sono pochissimi e non addirittura inferiori rispetto ai normali vaccini. Non è che non si voglia parlare degli effetti collaterali di qualsiasi farmaco. Io sottolineo questo perché si parla di vaccini e dei loro effetti collaterali, e si prendono farmaci per autoprescrizione, neanche consigliati dai medici, trascurando completamente i loro effetti collaterali. Quindi non è che non si voglia parlare di effetti collaterali del vaccino. Di fatto i vaccini contro il papilloma hanno veramente finora una dimostrazione bassissima di effetto collaterale, che non significa fatevi tutti il vaccino, significa però che può essere una scelta di salute sana e intelligente. Allora, Deborah, te ne avevo parlato ieri quando ti ho detto vedilo qua al Piemonte, ecco, che ha deciso che è di nuovo un po' sotto l'acqua, tra l'altro, qua un po' in parte. Che ha deciso di sostituire il PAP test con l'HPV test insieme ad altre regioni, altre si stanno attrezzando. Comunque il PAP test sembra andato in pensione, non per anzianità, ma perché lo screening del tumore del collo dell'utero basato sul test per il virus HPV fornisce una protezione maggiore, del 60-70%. Questa è la conclusione a cui arriva uno studio pubblicato su Lancet, che ha valutato su larga scala l'effetto dello screening basato sul test HPV rispetto a quello basato sul PAP test nel prevenire appunto i tumori invasivi. Lo studio è stato condotto da un'equipe, ve l'ho anticipato, internazionale. I ricercatori sono stati guidati dal dottor Guglielmo Ronco del Centro di Riferimento per l'Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte della Città della Salute di Torino, che noi abbiamo il piacere di avere qua a Cuore Denari. Solo top di gamma. Per farci spiegare le cose per bene. Intanto grazie dottor Ronco per essere con noi. Grazie. Buongiorno, grazie a voi. Dottore, lo studio da lei condotto dimostra la superiorità dell'HPV test nei confronti del vecchio PAP test. La ragione è che fornisce una protezione maggiore. Mi spiega che cosa si intende, che cosa intendete voi ricercatori con il termine protezione? In questo caso direttamente che chi fa lo screening col test HPV ha un rischio più basso di sviluppare un cancro invasivo. Nello studio sono state seguite un numero molto grosso di donne, 180.000 circa, in Italia, Inghilterra, Svezia e Olanda. Abbiamo messo insieme i dati di tutto lo studio, abbiamo seguito queste donne, le donne sono state assegnate a fare o screenare lo screening o con il PAP test o con l'HPV, sono state seguite per una media di 6 anni e mezzo, abbiamo rilevato quanti tumori sono poi emersi invasivi e il numero di tumori, che già era basso nel braccio che faceva il PAP test, tra le donne che hanno fatto l'HPV è stato meno della metà, appunto il 60-70% in meno, ed è stato tra pochissimi casi, insomma. In questo senso quindi l'HPV test batte il PAP test, che però, dottor Ronco, non andrà in pensione, no? Continuerà ad avere un suo ruolo il PAP test. No, certo, intanto avrà un ruolo per decidere cosa fare poi delle donne che sono positive al test HPV. Però soprattutto ha un ruolo nelle donne più giovani. Nelle donne più giovani fare lo screening col test HPV porta a rischio di individuare molte lesioni apparentemente precancerose, ma che in realtà regrediscono da sole, e quindi di fare degli interventi, anche se sono piccoli interventi, comunque inutili, perché andiamo a trattare qualcosa che sarebbe guarito da solo. Dottor Ronco, ma quando lei dice donne giovani, è vero che delle donne non si dice mai l'età, ma quindi diciamo che prima dei 30 anni è meglio il PAP test? Prima dei 30 anni non bisognerebbe fare il test HPV, ma solo il PAP partire dai 25 comunque, prima non ha senso fare nulla perché non vengono tumori, si trovano solo lesioni regressive. Ecco, questa è anche una buona notizia. Dottor Ronco, prima di dare la linea ai mercati e al traffico e salutarla, per quanto riguarda la frequenza dei controlli, che differenze ci sono tra PAP test e HPV test? Allora, normalmente per il PAP test viene l'intervallo tra due test normali negativi è di 3 anni, per il test HPV si passa a 5 anni. Il motivo è, da un lato, che è più protettivo, la protezione data da un PAP test fatto ogni, da un test HPV fatto ogni 5 anni è doppia rispetto a un PAP test fatto ogni 3 anni. Dall'altro lato, di nuovo, fare test HPV troppo di frequente significa solo causare allarmi inutili, fare test di approfondimento non necessari e possibilmente anche trovare lesioni. Tra l'altro, dilazionando i controlli, qua rubo la parola alla donna di Denari, si spenderebbe anche di meno, ecco, no? Vero? Brava, brava. Vedi che sto finale mi convince. Mi sto deborarizzando. Dottor Ronco, grazie, complimenti. Grazie molte. Non è per dire, ma l'Italia in questo caso è avanti rispetto all'America. Il dottor Ronco gliel'avevo detto ieri, mi ha detto: ma non siamo qua a fare la gara, però intanto così, io la butto lì. Intanto, complimenti al dottor Ronco. Sui temi finanziari c'è un bello spread fra noi e gli Stati Uniti, però a tutto nostro vantaggio. Dottore, le è piaciuta questa? Ottimo. Grazie. Il dottor Ronco, speriamo torni a trovarci, che non volentieri si sia spaventato da questa nostra, ma insomma noi siamo contenti quando l'Italia, no, corre. Esatto. Dottoressa Luini, grazie. Ricordiamo grazie L'età della donna, un certo libro bellissimo che è al bollino di Cuore Denari, un libro tutto dedicato a noi, con grazie cura, attenzione, delicatezza e scientificità e rigore. Grazie dottoressa grazie, Luini. Grazie a voi. Cuore e denari. L'amore in fondo non è poi che un baratto, dai troviamo riscatto. Di qualche cosa ti puoi anche privare, dai facciamola fare. Noi solo colonne sonore eccezionali per lanciare i nostri argomenti, Nicolette. Assolutamente. In questo caso abbiamo scomodato Renato Zero mi col piace suo baratto. Però mi piace come Ferragamo. Io vorrei fare una rettifica, posso? Ma falla! Perché tu hai detto meno uno, Nicoletta sì sarà contenta. No. Ma io adoro Ferragamo, io vorrei vederlo sì a... È vero. Ecco. No, non parlare di queste cose perché facciamo no agiotaggio, insider trading, non si può fare. Quello che io volevo dire, sarà contenta Nicoletta che parlo di Ferragamo. Brava. Prima non mi ero spiegata bene. Quindi no, rettifico io per tutte e due. Sai che è il mio preferito, eh? Non dirlo! No, no, che ma... la borsa è aperta, non possiamo dirlo! Zittina! Allora, non è un baratto, non è un riscatto, come canta Renato Zero, però può essere un piccolo affare. Oggi nella nostra pagina di denari, lo abbiamo annunciato prima, parliamo di social lending, il prestito tra privati. Sono alcune piattaforme in Italia che trattano questo tipo di attività, avevano debuttato in Italia qualche tempo fa, un inizio di successo, poi qualche travaglio legato all'autorizzazione della loro, alla loro attività sancita dalla Banca d'Italia, che ne aveva momentaneamente chiesto la sospensione, poi la ripresa e il pieno successo. Parliamo di privati che interagiscono tra di loro appunto su queste piattaforme online. Nelle comunità c'è chi mette a disposizione il denaro e chi lo chiede in prestito, quindi per qualcuno si risponde ad un bisogno, per qualcun altro si tratta di un investimento. Buongiorno Maurizio Sella, fondatore e amministratore delegato di Smartica, società che si occupa di social lending, benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Ho detto correttamente tutte le cariche perché già ieri mi ero sbagliata, le avevo attribuito quella di presidente, però insomma. Esatto. Grazie. Allora, un'attività appunto della quale abbiamo parlato tante volte in passato, in Italia in sensibile crescita, certamente non quanto voi vorreste, ma naturalmente tutto quello che viaggia su online ancora in Italia, come lei sa, difficilmente attecchisce appunto fra gli italiani. Come stanno andando oggi le cose a Smartica? Ma, diciamo, siamo comunque soddisfatti dell'andamento perché diciamo camminiamo con le nostre gambe ormai quasi, quindi siamo molto vicini a break even point, che come sapete per un'attività che inizia in un mondo diverso, quindi su internet eccetera, è molto molto difficile. In più voi sapete Smartica è un istituto di pagamento, quindi è vicinato alla Banca d'Italia, quindi ha anche una struttura organizzativa molto pesante a tutela ovviamente dei prestatori e dei richiedenti che partecipano alla piattaforma, e quindi diciamo questo break even diventa un pochino più lontano. Allora 800 24 00 24 il numero verde come sempre a vostra disposizione. Raccontateci qual è stato in passato il rapporto con i prestiti dati o ricevuti da semplici privati, e già sono arrivati una marea di commenti, poi li leggiamo con Nicoletta. Lo rifareste? In molti dicono già no, per carità. Immaginiamo ci siano dei pro e dei contro, e se fosse una piattaforma come questa a risolvere magari i vostri problemi e questi aspetti un po' antipatici del prestito, mediando nel rapporto fra privati, appunto, vi incuriosirebbe, incuriosirebbe di più, sì. Se dice una parola sì. Orribile. No, secondo insomma, me è carina. Avete già sperimentato il social lending. Sella, ci racconta oggi quali sono i numeri della vostra piattaforma, quanti italiani si sono cimentati in questa attività di messa a disposizione del loro denaro e altri invece che chiedono in prestito. Poi spieghiamo bene come funziona questo match. Esatto. Beh, intanto spieghiamo forse come cos'è il social lending. Cos'è il social lending? Diciamo, come al solito fenomeno anglosassone. Nato in Inghilterra, non in America per una volta, quindi nato in Inghilterra, adesso negli Stati Uniti stiamo parlando di società come Lending Club che hanno 5 miliardi di dollari di erogato, che stanno andando in borsa, che hanno avuto Google come investitore, Prosper un miliardo, eccetera, eccetera, Inghilterra. In Italia, intanto cosa vuol dire social lending? Sulla nostra piattaforma di Smartica si va e si chiede un prestito che va da 1000 euro a 15.000 euro in tempo reale, quindi si ha la risposta se sì o se no, poi se sì si devono mandare dei documenti, si fanno delle verifiche. Dall'altra parte, qual è la differenza fondamentale? Dall'altra parte, invece di avere una banca o una finanziaria, si hanno delle persone che fisiche che fa la raccolta del denaro per metterlo poi a disposizione di questi impieghi, appunto qua in questo caso questa l'attività di intermediazione viene fatta proprio da privati, cioè la fate voi per conto di privati. Esatto, diciamo per rispondere al vostro primo commento, innanzitutto l'attività di prestiti tra privati non sarebbe consentita direttamente tra privati, perché sono attività che sono riservate, no, ad enti autorizzati. Attraverso le piattaforme di social lending questo fatto si può fare, ovviamente perché? Perché si controllano i tassi, si controllano, ci sono tutti i controlli antiriciclaggio, l'usura, eccetera, eccetera, che altrimenti tra privati potrebbe facilmente degenerare. Evidentemente diciamo. Sì. Io direi magari poi per prima di spiegare, lo faremo nella seconda parte, stamattina mi incespico, sarà il tempo, cosa secondo dici? Secondo me sì, è la pioggia. Sono meteoropatica. Siamo umide, ci si è inumidita la lingua. Allora. Lamberto esatto, e poi Angelo. E Angelo, da chi bisogna andare per io primo? Io voglio sentire Angelo, perché ci racconta come gli è andata a finire appunto una vicenda di prestiti familiari. Angelo, buongiorno. Parenti, mezzi, serpenti. Sì. Angelo, buongiorno. Buongiorno, sì, un saluto a tutti. Dunque, nell'88 dovevo farmi la casa. Sì. E avevo convinto mio cognato di richiedere al datore di lavoro un prestito. Da restituire in 10 anni, sì, in colate mensili. L'operazione l'avevo convinto perché mi ero impegnato a restituirgli mensilmente la quota che gli veniva sottratta dallo stipendio, in modo che lui non avesse il disagio mensile, insomma. Ha fatto quindi una cessione del quinto dello stipendio? Io non ho capito, Sergio. Sì, ha fatto la cessione del quinto dello stipendio e l'ha consegnato a me. Sì. E io dal mese successivo ho cominciato a pagargli quella che era la rata sua, lei gliela restituiva praticamente. Ecco. Okay. Esatto. Quindi, veloce che stiamo chiudendo? Dopo, sì? dopo due mesi mi ha richiesto i soldi indietro. Ah, ecco, e lei l'ha trovati per poterglieli dare subito? Eh sì, li ho dovuti trovare. Questo su. Però posso anche dire che non ho rotto la parentela. Bravo! Bisognerebbe vedere un po' bene i rapporti, magari lui ne aveva bisogno. Su Smartica potrebbe accadere questo, Maurizio Sella, insomma una richiesta di rientro veloce in 2 mesi. No, assolutamente no, diciamo che è l'opzione di chi ha richiesto il prestito di rientrare quando vuole, ma certamente i prestatori non possono richiedere un rientro anticipato. Certo. Questo... Allora, va da sé, insomma, verrebbe da dire. Cuore e denari. A proposito, tu mi devi dare 40.000 lire per la partita d'olio del mese scorso. Ah, quella partita? E quella è partita? No, per me è restata. Ah, va presto. Beh, c'hai fretta. Tu stesso hai detto prima si può anche campare 100 anni. Vabbè, ma si può anche morire subito. Vai presto. Fai presto, è una parola, fai presto. Eccoci ritrovati a Cuore Denari, stiamo parlando di prestiti non come quelli di Totò Peppino, parliamo stamattina di social lending, un sistema attraverso il quale privati fanno prestiti a privati incontrandosi in una comunità in rete con tassi vantaggiosi, adesso lo capiremo, e con tanto di monitoraggio di queste piattaforme che sono autorizzate dalla Banca d'Italia. Con noi l'amministratore delegato di una delle piattaforme operanti in Italia, che non è che siano molte, Maurizio Sella, c'è Smartica, c'è Prestiamoci, c'è qualche altra attività che si sta mettendo in luce? No, a quanto ne sappiamo noi siamo solo noi due. E allora, quindi insomma, avete tutta l'opportunità di conquistarvi una fetta di mercato interessante. 800 24 00 24, il numero verde per gli ascoltatori che ci stanno raccontando se hanno già sentito parlare di questo tema o se siete membri di questa comunità come prestatori o come fruitore di prestiti. Come è andata? Raccontateci un po' quali sono state anche le richieste che vi hanno fatto. Allora Sella, come si diventa prestatori? Ma prestatore è molto semplice, bisogna avere 18 anni, un conto corrente in banca e fare di fatto un bonifico. Questo bonifico ai fini antiriciclaggio è il bonifico di riconoscimento, mm-hmm. perché noi non li riconosciamo fisicamente ma a distanza. Devono riempire un formulario sulla Know Your Customer, si dice in inglese, quindi sulla frequenza delle operazioni eccetera, sempre ai fini antiriciclaggio, e di fatto si comincia a prestare, si fa un'offerta sulla piattaforma, un tasso di interesse che adesso poi vi spiegherò, e automaticamente, diciamo, da quel momento in avanti la piattaforma incomincia a prestare. Importante dire che non si presta a una sola persona, ma almeno a 50 certo. diversi richiedenti prestito, per diversificare. È un fondo che si mette a disposizione della comunità, in sostanza. Esatto, no? Esatto, si sceglie la durata, il tasso di interesse e il rischio eventuale, quindi dire certe scadenze certe persone non le vogliono, certe certo. categorie di rischio altre. Esattamente, no? Come se fosse uno strumento di investimento, come se fosse un titolo di Stato o un investimento sul mercato azionario dal quale prima o poi si vuole uscire. Ecco, assolutamente, tra l'altro è proprio un aspetto importante. Io trovo che questa è veramente una maniera per prestare soldi in maniera innovativa, etica e sociale, con dei rendimenti che sono però molto interessanti, perché oggi i prestatori in media stanno prestando intorno al 6%, 6-6,5%, quindi comparandolo con i titoli dello Stato che conoscete molto bene. Ah sì, che sono rasoterra. E poi l'altra cosa importante è che è facilmente prevedibile il rendimento, considerate che ogni mese si ricevono capitali interessi. No, qua però la domanda ci sta subito, naturalmente, lei se l'aspetta, come fate a riconoscere un rendimento di questo tipo? Noi, anche quando facciamo le nostre iniziative, chiamiamole così, di educazione finanziaria, cerchiamo di trasmettere questo messaggio, che quanto più alto è il rendimento di una soluzione di investimento che ci viene proposta, quanto più alto è naturalmente il rischio sottostante. 6%, dati i tassi di mercato su ogni prodotto di investimento, è un po' elevato. Guardi, non sono cambiati negli ultimi 5 anni, diciamo, questi tassi di interesse, sono sempre stati intorno a questo livello, perché diciamo sono un po' il riflesso dei tassi di interesse che si applicano sui prestiti personali certo. non garantiti. La Banca d'Italia dice che i prestiti in questo momento, fa le statistiche trimestralmente, stanno intorno al 12%, attenzione, il 12% è il tasso medio, da quello parte il tasso massimo che si avvicina al 20%, voi conoscete le carte di credito revolving, per chi richiede un finanziamento o per chi le utilizza paga anche il 20%, quindi chi presta ovviamente ha un ritorno perché c'è un certo. tasso di insolvenza. Quindi in sostanza al prestatore viene riconosciuto il tasso di interesse che è applicato al prestito di chi chiede appunto il prestito. C'è un margine ovviamente, e a proposito di questo rispondere anche ad alcune esigenze della nostra community, a partire da gennaio noi lanceremo questo fondo ritardi, vuol dire che invece oggi cosa succede? Il prestatore fa la sua offerta, il richiedente paga delle commissioni, paga un tasso di interesse come se pagasse le spese di istruttoria per un esatto. prestito normale, però diciamo che una parte di queste spese vanno a compensare il prestatore, quindi diciamo il prestatore ottiene questo 6,5, in media il richiedente paga il 9. Allora, cosa andremo a fare sostanzialmente? Andremo a prendere una parte della commissione che paga il richiedente e la andiamo a inserire nel fondo, in un fondo che si chiamerà fondo ritardi. Allora, questo fondo servirà, diciamo, da calmiere e verrà interverrà soltanto nel momento in cui, dopo aver fatto tutte le iniziative di recupero crediti eccetera che sono tipiche della nostra attività, effettivamente non si riesce a recuperare. Ci ha dato una notizia in anteprima molto interessante, le chiedo se la necessità di istituire questo fondo risponde ad una situazione di difficoltà che si sta manifestando fra le persone che chiedono prestiti alla vostra comunità. C'è chi ha ritardi nei pagamenti, quindi rispondete ad un'esigenza oggettiva oppure è una precauzione da parte vostra? Un po' tutte e due le cose. Diciamo che eliminiamo l'elemento sfortuna, perché ci può essere un prestatore che presta oggi a quattro persone diverse con un certo rischio e a quattro ritardi, un altro prestatore domani ne presta stesso rischio e subisce, ma non ha nessun ritardo. Quindi con questo fondo ritardi noi andiamo ad equilibrare, a rendere più equo, se vogliamo solidale, il rischio di credito. Sempre per utilizzare i termini finanziari possiamo chiamarla un po' una stanza di compensazione, diciamo, delle due parti che si incontrano sulla vostra piattaforma. Esatto. Chi sentiamo? Andrei da Tonio. Sì. Ci chiama dalla provincia di Oristano. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Ci racconti? Ci racconti un po'. Niente, io feci da garante alla mia cognata circa 6 anni fa. Sì. Niente, siccome era in doccia c'è appesa, purtroppo però dopo un anno chiese un suo prestito, mi risposero che praticamente che aveva ricevuto il favore, cioè mia cognata, non stava pagando. Ho dovuto colmare io il debito in 3 anni e mezzo. Tonio, qua purtroppo, come dire, se sua cognata fosse andata alla Smartica probabilmente le avrebbero chiesto una serie di garanzie, sì, e forse insomma magari avrebbero valutato diversamente l'opportunità di conferire questo prestito. I nostri ascoltatori ci stanno raccontando, è vero, delle avventure un po' sgradevoli, insomma, riassunte nella frase che quando presti un amico scappa l'amico, non rivedi più i soldi, come ci scrive un ascoltatore. Non è sempre così, ma insomma questo è quello che ci state raccontando. Sella, torniamo all'attività del prestito tra privati. Allora peschiamo un ascoltatore che vuole chiedere delucidazioni su questa attività. Michele dalla provincia di Treviso, benvenuto. Sì, buongiorno. Eccoci. Non so se sono sull'argomento giusto, perché ascoltavo prima, adesso mi hanno richiamato. Io volevo capire un prestito tra abbiamo privati. Chiuso col papillomavirus, Michele. Siamo adesso siamo sui prestiti. Cosa le interessa? Volevo, siccome io l'ho fatto e ho avuto anche bisogno che mi hanno prestato dei soldi, gli eventuali interessi che uno percepisce o paga sono tassati come una banca? Ah, certo, come una rendita finanziaria, Michele. Ottima domanda, la ringrazio. Sella. Ottima domanda, guardi, è forse l'aspetto sul quale sto lottando da più tempo. Lei ce n'ha sempre una di battaglia in questa sua attività, sempre, mai abbassare la guardia. Ma fare innovazione finanziaria in Italia è comunque è una dura, bella battaglia. Allora, sostanzialmente, per chi presta il proprio denaro, in realtà noi facciamo una ritenuta da conto, che in questo momento è il 26%, quindi equivalente agli altri strumenti finanziari, e poi se il prestatore ha un reddito, diciamo, elevato, deve portare in dichiarazione gli interessi percepiti e pagare eventualmente la differenza. Come un capital gain? Sì, in realtà è come un'imposta marginale, quindi se diciamo che nella media i prestatori o diciamo i redditi italiani hanno una tassazione intorno al 33% per le persone fisiche, questi andranno a pagare la differenza tra 26 e 33. Voglio capirne un po' di più facendo un esempio. Allora, ammettendo che io abbia, non so, 10.000 euro e domani mattina mi rivolgo alla vostra piattaforma a Sella per mettere a disposizione della comunità questo denaro in modo tale che altre persone che hanno bisogno possano magari in due suddividere questo denaro in due prestiti da 5.000 euro, no? Ecco, mi spieghi un po' come faccio a calcolare se questo investimento mi conviene. Guardi, sostanzialmente il calcolo va fatto. Intanto bisogna capire la propria tassazione. Ipotizziamo che una persona abbia una tassazione del 30%, è molto semplice, quindi bisogna guardare la propria imposta marginale cosiddetta. Quindi se diciamo che il 6 è il rendimento, si toglie il 3%, quindi l'1 è 8, quindi si va, il rendimento netto è del 4,2%. Tra l'altro abbiamo fatto anche il fondo ritardi proprio per ovviare un altro inconveniente, che spesso, cioè questo è valido in tutto il mondo, i rendimenti attivi che si ottengono non possono essere compensati con eventuali perdite su richiedenti che non pagano. Minusvalenze o plusvalenze, sempre nel campo del, come dire, gergo finanziario, questo è il tema. Ma a prescindere dalla tassazione, perché lei mi ha chiarito questo aspetto, proprio in termini termini generali, come funziona la suddivisione del denaro che io metto a disposizione? Appunto, questi 10.000 euro intanto posso decidere fin da domani quando li metterò a disposizione entro quanto li rivolgo indietro? Sì, diciamo, come dicevo prima, si fissa l'importo che si vuole prestare, si trasferiscono il denaro, si fa un'offerta sul sito che normalmente in automatico spalma la propria denaro tra le diverse categorie di rischio, però se vuole il prestatore può decidere che non vuole determinate scadenze, non vuole andare troppo lungo, non so, fino a 48 mesi, non vuole una categoria a più alto rischio, e quindi può intervenire sul sito come vuole in ogni momento. Mm-hmm. E invece per quello che riguarda la persona che chiede il prestito, quale tipo di garanzie chiedete? Naturalmente qua, essendo un prestito, fate come le banche, fate un check-up, per utilizzare i termini invece di Cuore Denari, molto dettagliato appunto dalla situazione finanziaria del richiedente, oppure... Sì, in realtà noi facciamo un'interrogazione alle società di informazione creditizia, che in Italia sono CRIF ed Experian, e le quali ci tornano immediatamente, un'interrogazione in tempo reale che ci torna indietro, e sulla base del risultato dello scoring che ottengono vengono approvati o meno. Poi attenzione, uh-huh, noi facciamo delle verifiche molto attente, uh-huh, perché siamo online, quindi ci devono mandare l'estratto conto degli ultimi due mesi per vedere i movimenti che hanno fatto, uh-huh, e cedolino paga. Noi facciamo una telefonata al posto di lavoro per essere certi che quel posto ci sia, uh-huh, eccetera. Richiediamo anche un bonifico che ha degli scopi anche antifrode, perché quello sarà il conto da cui andremo a fare, certo, l'addebito ogni mese delle rate. Ecco, questa cosa che ha detto poco fa mi incuriosisce. Facciamo anche una telefonata sul posto di lavoro. Questo significa che, come dire, il mondo del lavoro dipendente, quello che accogliete più volentieri, il contratto a tempo indeterminato, se arriva una partita IVA che ha bisogno, come più frequente che accade in questo periodo, perché sono soprattutto i lavoratori autonomi che magari hanno bisogno per mandare avanti per qualche mese la loro attività di prestiti di questo tipo. Diciamo che in realtà la maggior parte, la stragrande maggioranza delle richieste vengono dai lavoratori dipendenti, che certamente è una pratica più facile. Diventa più complessa quella di una partita IVA, ecco, diciamo, i professionisti, commercialisti, avvocati, eccetera, forse iscritti ad albi è più facile che ottengano un finanziamento. Diciamo che l'autonomo ci deve presentare la sua dichiarazione dei redditi, ma noi dobbiamo tutelare il denaro di chi presta, dovete considerare, quindi dobbiamo stare molto attenti. Certo. A come questo viene, quindi dobbiamo, guardi, ci piacerebbe erogare tantissimo, noi su 100 richieste in questo momento ne eroghiamo 11, quindi dobbiamo essere molto attenti, attorno molto, al 10%. Certo. Sì, quanti membri sono iscritti alla vostra comunità in questo momento, e come prestatori e come richiedenti? Guardi, abbiamo circa 5.000 prestatori in questo momento, che vuol dire quelli che hanno veramente prestato del denaro, e abbiamo intorno ai 3.000 prestiti erogati, mm-hmm, per quasi 16, certo, milioni di euro. Numeri sempre piccoli, ma in crescita. In crescita. Non è possibile fare però un identikit del, esatto, prestatore? Brava, ero sulla, sì, stessa domanda. Vedi, oltre a vestirci uguali, perché, sì, ormai io e Deborah ci vestiamo uguali, le gemelle diverse praticamente, sì, anche perché lei è alta e io un pochino più bassetta, ma faccio finta, mi metto i tacchi, adesso ci vengono anche le domande uguali. L'identikit. Dunque, prestatore tipicamente, allora non è una cosa da ragazzi, sì, né da prestatore né da richiedente, nel senso il grosso, l'80% per entrambi i casi viene da persone che stanno tra i 30 anni e i 55 anni, ok, quindi gente, diciamo, che ha una certa esperienza. Quindi possiamo, se vogliamo, farlo, Nicoletta, ci assolutamente siamo, quindi... questa prima qualità anagrafica l'abbiamo. Sono, diciamo, i prestatori della prima ora erano gli innovatori, quelli che adorano tutto quello che è alternativo alla finanza tradizionale, c'erano gli antibanche, eccetera. Oggi sta diventando, a mio avviso, uno strumento alternativo per impiegare il proprio denaro. Come sempre, non bisogna mettere tutti i propri risparmi qua, ma qua bisogna sempre diversificare. Esatto. Ve lo dico sempre, ma se ve lo dico sempre, l'altro volta, dopo un anno e mezzo, qualche cosa reciprocamente l'avremo capita. Ecco, altra cosa sui richiedenti prestatori, è un po' triste perché sui prestatori il 95% sono uomini, sui richiedenti il 75%. Ma fare questa battaglia per le donne, per rendervi un po' indipendenti dal punto di vista economico, come dire, per un piccolo prestito che magari vi aiuta a risolvere un piccolo problema o a fare un piccolo acquisto, magari un piccolo regalo. No, adesso magari il prestito chiediamolo per quando è necessario, non indebitiamoci per cose voluttuarie. Velocemente, prima di chiudere, due telefonate. Andiamo prima da Simone. Volentieri. Buongiorno Simone, da Prato, e poi scendiamo a Napoli. Ma la Toscana quanto ci vuole bene? Tanto, tanto. Simone, tanto. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo capire bene, se io volessi partecipare come prestatore, sì, il rischio del prestatore, in base, insomma, se non viene restituito il prestito, non viene pagato le rate, è sugli interessi, c'è una garanzia sul capitale? O viene, cioè, il rischio è anche di perdere l'intero capitale. Perdere l'intero capitale come un altro investimento, come un investimento che non viene rimborsato, un'obbligazione che va in default. Sella, cosa rispondiamo all'ascoltatore? Ma diciamo, la cosa importante è che non si presta a una sola persona, ma almeno a 50. Noi raccomandiamo, per cifre più importanti, di diversificarlo tra 100 persone. Non esiste perché una garanzia. Io so a chi vado a prestare. Io, se domattina le dessi questi famosi 10.000 euro di cui le parlavo prima e lo voglio dividere in due, questo importo, so, conosco le due persone, so che è diviso su due prestiti differenti. Non conosce le persone ovviamente direttamente, ecco. Si opera attraverso dei nickname, quindi quando ci si registra sia come prestatore che come richiedente, ovviamente questo per evitare che le persone possano poi andare a recuperare il credito direttamente. È una forma molto di tutela, auspicabile. Cioè, certo. Di protezione, certo. Esatto, e diciamo che non c'è garanzia, per rispondere a Simone, non c'è garanzia sul capitale. È un posso dire che i più grossi investitori in Inghilterra, negli Stati Uniti, stanno incominciando a diventare i fondi obbligazionari, perché questo è uno strumento, chiamiamolo finanziario, che ha dei rendimenti molto molto poco volatili, con un tasso di insolvenza assolutamente misurabile, atteso, e normalmente è sempre molto inferiore, certo, a quello che poi si realizza. Prima di sentire la domanda dell'ascoltatore da Napoli, Andrea da Bologna chiede cifra minima e massima invece per prestatore. Prima abbiamo detto il limite minimo e massimo del prestito che si può chiedere, io quanto posso dare se voglio mettere denaro a disposizione. Guardi, noi partiamo molto bassi proprio per consentire alle persone di provare. Conoscere, esatto, certo. Perché siccome siamo un paese che ha poca fiducia nell'innovazione, come dicevo, noi consentiamo di partire con 100 euro, anche se la cifra minima ideale dovrebbe essere 500 euro, proprio per fare 50 prestiti da 10 euro, altrimenti con 100 euro ne sarebbero solo 10, quindi non funziona bene il meccanismo. Fino a 50.000 euro per il momento, dico per il momento perché questo è un limite autoimposto, considerate che nella media noi abbiamo prestatori che ci danno 2.500 euro. Allora, non riusciamo a rispondere ad Antonio, voglio sentire solo in 5 secondi Raffaele da Napoli. Raffaele, buongiorno, lei partecipa come prestatore? Buongiorno a lei. Veloce, veloce, che dobbiamo chiudere. Io sono stato un prestatore della prima ora, sì, sia su tutte le piattaforme che esistevano in Italia. Va bene. Quindi sia attualmente ormai Smartica, sia l'altra che fu bloccata. Era un modo come un altro, diciamo, anche per finanziare con una piccola spesa su tutti alcuni progetti, anche da parte di giovani che trovavano difficoltà. Però, diciamo, l'esperienza è stata un po' controversa. Uno, il problema della tassazione, sì, della rendita, sentivo già. Sì, perché veloce, veloce, Raffaele, poi... Sì, e quindi, insomma, secondo, se nella scelta dei progetti, se si potrebbe incentivare, visto anche il problema, proprio più questa cosa. Abbiamo dato due suggerimenti, Maurizio Sella, sui quali si metterà sicuramente al lavoro. Grazie per essere stato con noi. In bocca al lupo per Smartica. Grazie a voi, Crepe. Nicoletta, noi torniamo domani? Assolutamente, come sempre. Sì. Buona giornata a tutti. E denari.